Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati al quarto e ultimo appuntamento con Generazione Mobile Estate. Per tutto il mese di luglio vi abbiamo tenuto compagnia con un poker di puntate speciali in onda ogni sabato e dedicate a studio, lavoro e fare impresa in Europa e nel mondo. Anche in questa versione balneare ci siamo concentrati soprattutto sui consigli pratici per consentirvi di pianificare al meglio un espatrio. Come sempre lo abbiamo fatto sulla base delle testimonianze che vi portiamo settimanalmente in onda. E anche in quest'estate 2020 abbiamo scelto alcune delle storie più interessanti e ricche di dritte pratiche tra quelle andate on air nel corso dell'ultima stagione. Questo è il marchio di fabbrica di Generazione Mobile, informazioni concrete e solide per aiutarvi a costruire un profilo professionale globale, senza fronzoli e senza chiacchiere, per aiutarvi ad affrontare da vincenti un mondo sempre più interconnesso dove mettersi in gioco. Prima di entrare nel menu della puntata, lanciamo ancora una volta il nostro appello a voi ascoltatori in vista della prossima stagione autunnale. Per prima cosa, cerchiamo nuovi testimoni per l'edizione 2020-2021. Se studiate, lavorate o fate impresa all'estero e se siete soprattutto ancora under 40, scrivete alla nostra email generazionemobile@radio24.it e potrete venire in onda nei prossimi mesi a fornire il vostro apporto nel costruire una generazione davvero globale e senza confini. Oppure, se conoscete qualcuno che vive oltre confine e presenta questo profilo, beh, presentatecelo o presentatecelo. La seconda cosa che vi chiediamo, inviateci domande, riflessioni e suggerimenti sul tema espatrio, nelle sue connotazioni più pratiche ovviamente. Saremo ben felici di condividere queste informazioni o richieste di informazioni con il nostro network on air e online alla ripresa del programma. Bene, è arrivato il momento di iniziare con un interessante focus sul tema dello studio. Siamo in piena estate, molti giovani ascoltatori si stanno spostando o si sposteranno nei prossimi mesi per fare esperienze oltre confine. E noi vogliamo viaggiare insieme a voi, aiutandovi a pianificare un futuro a lungo raggio. Avete mai pensato di trascorrere alcuni mesi o addirittura un intero anno di scambio studentesco all'estero? Che ne dite anche di un bel Erasmus? I testimoni di oggi sono qui per regalarvi preziosi consigli. Tra Africa ed Europa, il mondo è vostro. Si tratta solo di cogliere l'occasione giusta. Chiuderemo la puntata con la nostra cassetta degli attrezzi Toolbox, oggi dedicata a fornirvi tutti gli strumenti utili per redigere il curriculum perfetto per lavorare all'estero. Lo faremo insieme ad un'esperta. E allora, iniziamo! Generazione Mobile. La prima testimone della settimana è una giovanissima studentessa 17enne che ha scelto il Sudafrica quale meta per un lungo periodo di scambio all'estero fin dalle scuole superiori. Un'avventura nell'altro emisfero che ha lasciato un'impronta profonda nella formazione di Anna, e non solo a livello educativo. Per questo ha accettato di venire in onda con noi a condividere le sue preziose dritte. Abbiamo intervistato Anna lo scorso gennaio. Buon pomeriggio, Anna Candiani. Ciao! Anna, a Milano frequenti il liceo scientifico. Cosa ti ha portato a un certo punto della tua carriera a scegliere l'esperienza di un lungo scambio all'estero? Mi hanno presentato questa offerta in seconda, però beh, non mi sentivo molto pronta, quindi ho deciso di partire in terza perché mi ero un po' stufata della mia vita un po' monotona a Milano, sempre facendo le stesse cose. E dalla candidatura alla selezione, come descriveresti il processo di accettazione della tua domanda per andare un anno all'estero? Molto lungo e difficile, si comprende tipo circa 5-4 fasi di selezioni con test, incontri volontario studente ragazzo, volontario famiglia, poi ti riceverai una risposta e da lì iniziano anche gli incontri di preparazione alla partenza, quindi molto lungo ma molto bello e interessante. Quali sono i tuoi consigli, Anna, per passare al meglio queste fasi di selezione? Essere sempre molto disponibili e convinti di quello che si sta andando a fare e farsi vedere entusiasti, perché se andate a fare un'esperienza è quello che vuoi fare. Allora Anna, tu sei andata in Sudafrica, perché hai scelto proprio il Sudafrica? Quale motivazione ti ha portato fin lì? Io non avevo grandi motivazioni, l'unico grande motivo è perché volevo ritrovarmi al mio arrivo un grande impatto culturale e Sudafrica secondo me era il paese che maggiormente poteva offrirmelo. E a settembre sei approdata a destinazione per uno scambio di 11 mesi. Dove sei arrivata esattamente? Insomma, ci descrivi un po' il posto dove vivi. Io vivo in Mpumalanga, che è una regione a nord-est dell'Africa, in un paesino, in un villaggio che si chiama Bushbuck Ridge, come un complesso di case sparse su 5-7 colline, e poi c'è la town che è stata la montagna principale. Io vivo sulla quinta collina, la scuola per esempio è sulla terza collina. Mi sono resa conto di aver cominciato un anno in Sudafrica 3-4 giorni dopo l'arrivo in famiglia. Ricordi adesso, a distanza di mesi, com'è stato l'impatto iniziale in un paese così diverso dal nostro? Molto duro e faticoso. Io sono una persona estremamente abitudinaria, quindi allontanarmi dalle mie abitudini italiane è stato molto difficile, soprattutto perché incontravo una cultura totalmente diversa da quella italiana, quindi però mi è venuto soprattutto la mia famiglia e i miei amici a scuola. E la vita in famiglia in Sudafrica, quanto i rapporti e le relazioni interfamiliari sono diversi rispetto a quelli cui sei normalmente abituata qui? Le famiglie sono molto complesse, perché io vivo per esempio con mia mamma e mio papà e ho un sacco di fratelli sparsi tutto in Sudafrica, soprattutto i due fratelli grandi che abitano nelle due capitali. Qui tutti sono un po' fratelli, un po' cugini, un po' sorelle. I bambini che abitano nel mio villaggio sono tipo miei cugini, però che chiamo fratelli perché qua i cugini sono fratelli alla fine. Vivo come cugino. L'importante qua è sempre molto, ci deve essere sempre un rapporto di fiducia tra genitore e figlio. Questo è sempre molto importante. E diciamo, la vita di tutti i giorni è ovviamente diversa, e soprattutto tu hai imparato a non dare sempre per scontate alcune comodità, giusto? Quali ad esempio? Per esempio non avere sempre l'acqua in casa. Io ho fatto per un mese e mezzo una vita basandomi solo sull'acqua piovana. Non avere l'elettricità, perché c'è lo CED, praticamente consiste nello spegnere l'elettricità per 3 volte al giorno per 3-4 ore, e ovviamente mi lavo con dei secchi quando non c'è acqua, e diciamo sopravviviamo con quello che abbiamo, però è sempre una bella esperienza. Chiaro, una bella scuola di vita. Passiamo proprio alla scuola. Come è diversamente strutturato l'anno scolastico in Sudafrica? Ci sono degli esami finali, Anna? Sì, totalmente diverso. Praticamente ci sono 4 term, e alla fine di ogni term ci sono gli esami, fino alla fine del term 4 ci sono gli esami finali, che sono quelli che contano di più, infatti sono quelli anche che vengono presi dalla scuola più seriamente, e alla fine di ogni sessione di esami ci sono un paio di settimane di vacanza. E come descriveresti la metodologia di insegnamento e anche il rapporto docenti-studenti? Quali sono le differenze con l'Italia? Il rapporto è molto informale. Le lezioni sono sempre frontali come in Italia. Io ho scelto solo nella scuola, si poteva scegliere solo l'indirizzo. Sono sempre frontali le lezioni, però l'insegnante qui viene chiamato genitore, proprio come se fosse un educatore. Quindi se qualsiasi domanda, se qualsiasi dubbio, puoi sempre andare a chiedere, puoi sempre andare a chiedere aiuto, farti aiutare, loro sono sempre molto disponibili. Una cosa ti chiedo ancora, Anna, ed è a livello linguistico la lingua che tu usi per comunicare o per studiare, l'inglese o ci sono anche altre lingue? Qui ci sono 11 lingue ufficiali, e di media le persone parlano tra le 6 e le 8 lingue anche bambini di 5-6 anni. Straordinario. Tra di loro parlano sepedi, nella regione sepedi o seculana. Io a scuola imparo il sepedi, però è una lingua molto difficile, molto diversa dalla nostra, quindi io comunico con loro semplicemente in inglese. Qui sono tutti in inglese, anche mia sorella che ha 4 anni. Quindi. Ci raggiungerò in linea Alice Dal Piazza, volontaria di Intercultura con un'importante esperienza e conoscenza del Sudafrica. Buon pomeriggio, Alice. Buon pomeriggio. Tu hai una laurea in scienze internazionali e diplomatiche alle spalle, soprattutto come volontaria hai accompagnato in passato gli studenti proprio in Sudafrica. E completando le informazioni che ci ha appena fornito Anna, cosa puoi aggiungere sul modello scolastico sudafricano? Ma è un modello che segue il modello scolastico anglosassone. Quindi, appunto, come ha detto Anna, i term con gli esami alla fine dei term, ma soprattutto anche un focus sulle competenze, a differenza della scuola nostra italiana, dove c'è più attenzione verso le conoscenze. Lì le competenze sono molto molto valutate. E a chi consigli tu un'esperienza di scambio studentesco in Sudafrica? Quali attitudini interpersonali occorre avere soprattutto alla base? A chi consiglio l'esperienza? Sicuramente chiunque, perché è un'esperienza totalmente arricchente. Anche spesso come volontari ci viene chiesto fatto programmi di scambio per imparare la lingua, quindi come ha detto Anna, l'inglese, quindi un ragazzo o una famiglia che abbia la motivazione di imparare l'inglese sicuramente può pensare anche al Sudafrica e non magari alle destinazioni standard. E quali attitudini bisogna avere? Sicuramente apertura mentale, capacità di adattamento, abbiamo sentito cosa ci ha raccontato Anna, quindi sicuramente sono due caratteristiche che è importante avere alla base, diciamo. E per prepararsi nei mesi prima della partenza, quali sono i tuoi consigli pratici? Come intercultura, i ragazzi seguono un percorso di formazione prima della partenza, strutturato in genere in 3-4 incontri, dove spieghiamo ai ragazzi quali possono essere le differenze culturali ma anche di comunicazione. Tante volte i piccoli disguidi che si possono creare tra ragazzo e famiglia riguardano proprio diversi modi di esprimersi, non cose diciamo particolarmente rilevanti. Anche il modo tante volte può essere un piccolo ostacolo, quindi prestare attenzione anche sulla comunicazione è molto importante. E poi spieghiamo ai ragazzi come ci si può adattare al meglio all'estero, quindi diamo loro tutti gli strumenti per affrontare nel modo migliore la loro esperienza all'estero. Una domanda flash, Alice: per chi invece volesse proseguire con lo studio in università in Sudafrica, è un paese dove è interessante studiare, e se sì in quali città o atenei? È molto interessante studiare in Sudafrica, soprattutto nelle grandi città, quindi sto pensando a Città del Capo, a Johannesburg e a Pretoria. Le università sono buone, diciamo a livello generale. Poi ci sono ancora piccole ricche, ad esempio se qualcuno è particolarmente interessato all'enologia, alla viticoltura, c'è l'università di Stellenbosch, sempre vicino a Città del Capo, che è una delle più rinomate, insomma, per questo ambito molto specifico. E per il resto assolutamente è un'esperienza che consiglio, anche un semplice scambio, se non tutta l'università, anche uno scambio assolutamente anche durante il periodo dell'università è positivo, anche se non ha lo stesso impatto di un'esperienza di scambio fatta a 16-17 anni come sta facendo adesso Anna. Grazie ad Alice Dal Piazza. Abbiamo la nostra domanda di rito per Anna Candiani: il primo consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero? Chiedere sempre informazioni, che sia prima in Italia su dove stia andando, informarsi, ma anche dopo quando si è nel paese ospitante, chiedere se non si capisce qualcosa, chiedere se non sai come fare qualcosa di nuovo che non sai, chiedere dove starai andando, cosa dovrai fare, chi dovrai incontrare. Quindi chiedere, secondo me, è il consiglio più importante. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa quarta e ultima puntata estiva, lo studio Oltre Confine. Dopo essere volati in Sudafrica, è il momento di rientrare in Europa per spostarci in Spagna. Lo facciamo incontrando una studentessa 21enne in Erasmus a Huelva, a sud della penisola iberica. Miriam ha scelto di trascorrere un periodo nella città andalusa per approfondire la sua formazione internazionale. Abbiamo intervistato Miriam a febbraio. Buon pomeriggio, Miriam D'Avanzo. Buon pomeriggio. Allora, perché hai scelto in primis di vivere un'esperienza Erasmus? Cosa ti ha spinto a sperimentare in prima persona il più noto periodo di scambio all'estero? Io ho deciso di vivere questa esperienza in prima persona perché sentivo spesso parlare dei ragazzi più grandi appunto di questo loro Erasmus, e ho sempre pensato che sarebbe stata una delle esperienze più belle, quindi vivendola in prima persona puoi renderti conto di quanto sia unica e indimenticabile, e ti rendi conto di quanto sia diverso e speciale il mondo in cui viviamo. Perché hai scelto proprio la Spagna per trascorrere questo periodo? Come sei approdata in Andalusia? Ho scelto la Spagna perché lo spagnolo è sempre stata la mia lingua preferita. Ricordo che quando frequentavo la scuola media mi feci dare dai miei genitori un vecchio libro di spagnolo e passavo appunto il mio tempo libero a studiare questa lingua. E l'Andalusia, per il clima e soprattutto la sua vicinanza al mare. La fase pre-partenza, questa è molto importante per organizzare il proprio Erasmus? A chi fare riferimento per presentare la candidatura? Per presentare la candidatura bisogna iscriversi ad un bando apposito che si trova online sul proprio sito dell'università, però per poterlo fare sono necessari alcuni requisiti, ovvero bisogna avere un minimo di crediti conseguiti, bisogna avere la regolarità negli studi, il profitto e un certificato di lingua. Dopodiché, alla pubblicazione della graduatoria, se risulti appunto idoneo, è a disposizione circa una settimana per accettare la destinazione che ti è stata assegnata. Cosa consigli di fare per non sbagliare inevitabile ovviamente trafila burocratica? Per quanto riguarda le pratiche burocratiche, non è tanto difficile, in quanto ci sono solo due moduli da dover scaricare sempre dal sito dell'università e compilarli. Uno è l'application form e l'altro è il learning agreement. Questi due file devono essere poi inviati all'ufficio relazioni internazionali che provvederà a farli firmare dal delegato Erasmus. Dopodiché si vengono rinviati in modo che possiamo appunto mandarli all'università ospitante, che appunto anche essi firmeranno e ci potranno inserire nel loro registro universitario. L'ultima pratica che bisogna fare appena prima della partenza è la firma dell'accordo di mobilità presso l'ufficio di mobilità internazionale Erasmus, e questo stabilisce i fondi economici che ci spettano. Arriviamo all'approdo nel paese. Ci descrivi brevemente Huelva, la città dove ti trovi? Huelva è una città non tanto, cioè abbastanza grande, 150.000 abitanti, ma abbastanza tranquilla e vivibile perché è a misura d'uomo. Si trova in una posizione strategica, secondo me, perché si trova appunto da un'ora dal Portogallo e un'ora dalla Siviglia ed è ben collegata. A me è piaciuta subito dal primo giorno, sia come città che per i suoi abitanti, che sono molto valorosi. Infatti proprio per questo motivo mi sono trovata molto bene e ho deciso di prolungare anche per il secondo semestre questa mia esperienza. La metodologia di insegnamento qui è differente rispetto all'Italia, il rapporto studenti-insegnanti è più diretto, più informale, così hai scritto a generazionemobile@radio24.it. Nella pratica però cosa significa? Partendo anche al numero di studenti per classe. Allora, significa che ci sono delle aule con un numero di ragazzi molto ristretti, sono massimo 50-60 alunni per un corso del primo anno, però per esempio attualmente sto seguendo un corso in cui siamo solamente in 10 in aula, per cui è come se ritornassi un po' al liceo. Poi per ogni disciplina viene fatta una divisione di 3 o 4 gruppi in orari diversi e ogni alunno può scegliere quello che è più conveniente secondo lui, e il rapporto è più diretto e informale perché qui non viene dato del lei come le nostre università italiane, ma del tu, quindi questo rende un rapporto più alla pari e non gerarchico. Ed è diversa anche la metodologia di valutazione rispetto all'Italia, è corretto? Sì, perché qui ci sono due metodologie di valutazione. Una è la valutazione continua, che è per i frequentanti, e vengono fatti dei diversi lavori di gruppo e test in itinere per valutare le capacità che sono state apprese, e queste hanno appunto una valutazione. Poi a fine corso ci sarà l'esame finale per valutare il tutto, mentre la valutazione finale è una valutazione per chi non frequenta e avrà semplicemente l'esame finale. Vita pratica a Huelva, l'alloggio ti è stato fornito dall'università oppure l'hai trovato da sola, e se sì come? No, l'alloggio non mi è stato fornito dall'università, in quanto l'università di Huelva non dispone di alloggi universitari, però non è stato difficile trovarlo in quanto dispone di un'agenzia che si occupa appunto di queste cose, quindi mi rende più semplice la ricerca dell'appartamento, perché una volta arrivati sul posto vengono fatti dei tour giornalieri proprio da queste agenzie in modo da farti visitare tutte le case disponibili e dopo sei libero di scegliere quella che preferisci in base alle tue esigenze. E la borsa Erasmus è sufficiente a coprire il costo della vita? Allora, la borsa Erasmus è sommata da due parti. Una è il compenso che viene dato uguale a tutti in base al costo della vita nel paese ospitante, e una seconda viene stabilita sulla base dell'ISEE, per cui varia da persona a persona, però per quanto mi riguarda l'insieme delle due borse mi è sufficiente. Ci raggiunge ora in linea Claudia Peritore, capo unità istruzione superiore Erasmus Plus. Buon pomeriggio e soprattutto ben ritrovata. Grazie, buon pomeriggio. Allora, quasi 12.000 studenti italiani in Erasmus in Spagna nel 2018. 2018, un incremento continuo tra l'altro negli ultimi anni. Cosa offre la Spagna in più rispetto agli altri paesi europei al punto da essere la prima destinazione per gli studenti Erasmus non solo italiani ma da tutta Europa? Diciamo che questa affinità elettiva è in entrambe le direzioni, perché come dicevi sono 12.000 gli studenti italiani che svolgono il proprio Erasmus in Spagna, quindi il 30% dei nostri studenti in mobilità Erasmus, ma altrettanti, quindi un 30% degli studenti Erasmus in Italia sono spagnoli, sono 10.000 gli studenti spagnoli che ospitiamo ogni anno, quindi veramente è una corrispondenza d'amorosi sensi, se così possiamo dire. I nostri studenti scelgono la Spagna in particolare chiaramente per un senso di vicinanza culturale, ma anche, da non tralasciare, è la qualità accademica delle università ospitanti il periodo di studio. Infatti di questi 12.000 studenti circa 10.000 si trovano in Spagna per mobilità per studio e il resto per mobilità per tirocinio, perché ricordiamo che Erasmus permette anche un periodo di formazione pratica di tirocinio all'estero. La prima università che ospita studenti italiani è l'Università di Siviglia, seguita da Granada e da Valencia, e nella top 10 delle 10 città in Europa che ospitano studenti italiani ben 5 spagnole, a conferma di questo grande successo. Al di là dello studio, come è il caso di Miriam, ci sono anche opportunità, lo accennavi poco fa, interessanti e diverse per altre tipologie di Erasmus Plus, è corretto? Sempre in Spagna? Sì, esatto, opportunità diverse come appunto la mobilità per tirocinio, quindi uno studente può partire in Erasmus con un supporto, una borsa Erasmus per un periodo di formazione in un'impresa all'estero, in Europa, e la Spagna è un paese attrattivo anche per questo, quindi un periodo di tirocinio pratico in un'impresa nel senso più ampio del termine, quindi un'organizzazione o un'azienda privata, piccola, media o di grande dimensione, un ente pubblico, un ente locale, uno studio di architettura, un'orchestra nel caso dei nostri studenti provenienti dai conservatori, quindi veramente impresa nell'accezione più ampia del termine. E vorrei ricordare che in particolare il programma Erasmus supporta i tirocini finalizzati allo sviluppo di competenze digitali che sono sempre più richieste dal mondo del lavoro in qualsiasi ambito disciplinare, quindi anche studenti di discipline umanistiche hanno bisogno di sviluppare competenze digitali e tirocini in questo ambito sono fortemente favoriti dal programma Erasmus. E se dovessi citarne una sola, qual è la competenza più importante che gli studenti Erasmus acquisiscono e che portano a casa dopo un periodo all'estero? Al di là della crescita accademica, quindi dell'arricchimento del proprio percorso accademico grazie a al fatto di poter studiare in un'università diversa, quindi che offre qualcosa di in più rispetto al percorso accademico che fanno nella propria università, sicuramente le competenze, le cosiddette soft skills, le competenze non solo interculturali ma anche la capacità di avere un approccio critico, la capacità di potersi integrare in contesti culturali diversi e anche lo sviluppo delle capacità proprio di autoimprenditorialità. Grazie a Claudio Aperitore, buon lavoro. E abbiamo la domanda di rito per Miriam D'Avanzo: il primo consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero? Il consiglio che posso dargli è quello di godersi al massimo questa esperienza, perché si rivelerà davvero indimenticabile soprattutto dal punto di vista personale, in quanto arricchisce il proprio bagaglio culturale. Perciò consiglio di frequentare il più possibile persone di altre nazionalità, sia per imparare la lingua sia per confrontarsi con realtà e abitudini diverse. La quarta puntata estiva di Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi settimanale, ci porta a focalizzarci su un tema estremamente importante per tutti coloro i quali guardano con fiducia a un futuro all'estero, il curriculum. Per questo vi proponiamo uno dei nostri tutorial su come preparare un CV dal profilo internazionale e su come affrontare il successivo colloquio di lavoro. Con noi Laura Valiente, Lead Permanent Consultant per Kelly Services Italia. A lei abbiamo posto la prima fondamentale domanda: a chi inviare il proprio curriculum? Per proporsi ai recruiter internazionali bisogna innanzitutto considerare le specificità del paese in cui si cerca lavoro, quindi prima di redigere il proprio curriculum vitae sicuramente è utile una preventiva raccolta di informazioni. La differenza che c'è nei format dei curricula dipende principalmente dal paese al quale ci riferiamo, nel senso che per i paesi europei, di fatto quindi faccio riferimento a Spagna, Portogallo come esempi principali, ma anche Germania, le aziende ricevono un altissimo volume di candidature, quindi è molto importante non essere troppo prolissi, diciamo. Quindi in una fase di screening iniziale un curriculum che abbia 2 pagine è assolutamente apprezzabile, con fotografia. La parte, diciamo, principale riguarda, come dicevo prima, l'obiettivo, quindi esplicitare immediatamente dopo la parte delle informazioni anagrafiche l'obiettivo professionale, quindi una sorta di sintesi di quello che è stato il percorso e le motivazioni che ci spingono a valutare una nuova opportunità. Per quanto riguarda invece i paesi anglosassoni, abbiamo un format completamente diverso, quindi generalmente c'è un curriculum che è anticipato da una cover letter. Sostanzialmente è una sorta di lunghezza, cioè una sorta di, diciamo, stringa riassuntiva nella quale, a differenza del, diciamo, del resto d'Europa, ci focalizziamo principalmente su i motivi che da un'esperienza all'altra ci hanno portato a decidere di cambiare, quindi focalizzandoci anche magari su gli aspetti negativi, no? Quindi insuccessi, eccetera, perché da quel punto di vista lì vengono valutati come appunto magari un'esperienza, un bagaglio interessante da valutare. Da un punto di vista invece di Canada e Stati Uniti, in realtà il curriculum è ancora più abbreviato, quindi avremo una sorta di resume che è di fatto una pagina composta in maniera sostanziale da di fatto un'esperienza professionale e di informazioni di contatto nelle quali non troviamo neanche, diciamo, la data di nascita. Lei ha fatto una disamina molto completa delle aree geografiche e delle necessarie differenze. Mi muoverei un passo oltre a questo punto. Sperando che il curriculum abbia sortito gli effetti desiderati, si arriva al colloquio. Ora, c'è sempre più l'utilizzo di internet, più che la presenza fisica, anche perché parliamo di posizioni all'estero. Qui quali sono i suoi consigli nella interazione di questo passo successivo? Allora, diciamo che il punto di contatto tra il recruiting che avviene sia nei paesi anglosassoni che nei paesi europei è il fatto che principalmente la buona parte del reclutamento si svolge online, quindi nel momento in cui noi abbiamo effettuato una registrazione sul sito piuttosto che inoltrato il nostro curriculum a recruiter, il selezionatore utilizzerà i social per ricercare anche proprio come si muove il candidato nei social network. In questo senso mi collego alle modalità anche di intervista perché diciamo la novità principale alla quale le persone che cercano un'occupazione all'estero devono prepararsi è sicuramente la recruiting gamification, quindi la ricerca e selezione del personale che passa attraverso questa parte un pochino più carina e interattiva, ma allo stesso tempo strutturata. Quindi aziende di medie dimensioni ma anche molto grandi hanno adottato questo approccio che pone al centro il candidato e il suo totale coinvolgimento in ogni fase del processo, quindi attraverso una formula ludica o un gioco viene simulato una vera e propria prova da superare con dei percorsi, degli spunti, delle sfide, e quindi attraverso questa modalità il candidato è più ingaggiato, ma di fatto l'azienda risparmia anche molto tempo. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Ci prendiamo ora una bella vacanza, ci risentiamo a settembre con nuove testimonianze, nuove dritte, nuovi consigli e nuovi itinerari di espatrio. Un saluto e un augurio di buona estate da Sergio Nava. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.